Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Perché ci piace avere paura? Non lo so perché, so però che prova a dare una risposta o il primo dei racconti che vi ripropongo oggi, giovedì 26 luglio 2012. Buongiorno a tutti, Radio 24, il meglio di voi siete qui. Questa puntata è andata in onda in realtà nemmeno troppo tempo fa, era credo giugno, e l'ha scritta una ragazza che si chiama Nicole e parla proprio di quella cosa lì, parla di quella cosa lì che è avere voglia di avere paura. Succede banalmente quando si accende la TV o quando si prende un DVD di un film dell'orrore e si dice, secondo me non ce lo si domanda sempre, ma a un certo punto ce lo si chiede: perché io sono su questo divano al buio e ho voglia di terrorizzarmi? Ecco, questo è ancora peggio però, perché in questo caso non sei a casa tua, non sei sul tuo divano e non hai preso un DVD, magari a noleggio, o magari si è scaricato il film, quindi non hai speso niente, poco o niente. In questo caso la vigna, e in molti altri casi, ha preso una macchina, è andata in un luogo dove si fa quella cosa lì, che è una cosa simile al bungee jumping o al salto con il parapendio o al lancio col paracadute, ed è praticamente terrorizzata. È una di quelle cose per cui quando arrivi a farle dici: ma perché l'ho fatto? Chi mi ha obbligato a fare? Nessuno mi obbligava, mi sono auto obbligato, poi hai tirato fuori i soldi e lo fai. Sto parlando di un'attività che si chiama Volo d'Angelo, che si svolge in una località che la Vigna dice, Nicole la Vigna è uguale, c'ha due nomi, dice essere bellissima e di trovarsi nella Basilicata. La Basilicata è un posto bellissimo, io ci sono stato grazie al mio amico Roberto Palermo, che mi ci ha portato, però il volo d'angelo io non l'ho fatto. Consiste nel essere appeso a un cavo, poi lei lo racconterà meglio di me nel racconto, essere appeso a un cavo e praticamente andare da una montagna a un'altra più o meno a testa in giù. Questo è quello che è il volo d'angelo. Lei lo racconta meglio, soprattutto lei racconta meglio quella cosa lì che ti succede, che è prima il terrore e poi invece una sorta di soddisfazione, perché hai superato una paura, perché ti senti più forte, perché ti senti per certi versi quasi invincibile. Voi siete qui, @radio24.it, se continuate a scrivere, se avete voglia di continuare a scrivere e di mandare le vostre storie. Nel frattempo fate una cosa, fa un gran caldo, chiudete le finestre, alzate la radio e ascoltatevi il racconto di Nicole. E alla fine mi sono buttata. Il mio volo dell'angelo. Mi chiamo Nicole Lavinia Lundari, ho 30 anni e faccio la giornalista. 30 anni è un'età un po' scomoda per tutti, specie per una donna. Laureata, certo, eppure masterizzata. Il lavoro c'è, ma precario. Io dico, sono uno yogurt che dura 12 mesi, ma prima o poi scade. Due amici simpatici ma idioti, l'amore c'è ed è bellissimo. E il resto, la vita è complicata per tutti e lo è pure la mia. Qualcuno che entra nella tua vita, ti fa bene e ti fa male, e poi se ne va. E tu ti ritrovi con la finestra aperta e resti lì a fissarla. 30 anni. Abbastanza per aver accumulato tanti errori. Per me, ancora pochi per imparare però. Beh, credo che 30 anni sia l'età in cui naturalmente si fanno dei bilanci, per cui uno valuta il fatto di avere un lavoro ma di non avere tante certezze né sul piano professionale né su quello che riguarda il resto della vita. Poco prima del fatidico compleanno andiamo in ferie. Marco sogna di incontrare di nuovo il suo amico Antonio, che ora vive in Olanda. Ok, ma compio io gli anni, quindi mezza vacanza la organizzo io. Ho scelto Matera, gli dico. Matera, mi risponde. Ma è lontanissima da Bologna. E poi ci sono due sassi in croce. Sei un ignorante, Matera è bellissima. E poi vicino ci sono sti borghi della Basilicata, stupendi. E lì chiudo la discussione. In realtà è tutta una scusa. Grazie a una ricerca sbagliata su Google, avevo scoperto l'esistenza del volo dell'angelo. Da due paesini che sembrano presepi ci si lancia modello missile e si vola sul vuoto. Ma nel senso proprio di vuoto, sospesi a centinaia di metri di altezza. Hai un casco, una piccola vela sulla schiena, un gancio e la tua paura. E basta. Marco si convince, o meglio si rassegna. Matera è davvero bella, ma io aspetto il mio volo dell'angelo. Vuole farlo anche lui, per non essere da meno. Saliamo a piedi e io ho già il fiatone. Una ragazza ci fa mettere il casco e ci manda pochi metri più avanti, sulla piattaforma. Parto per prima. Non potrei sopportare di vedere Marco gettarsi nel vuoto. Sembro coraggiosa e invece sono codarda. Il tipo mi chiede quanto peso. Sento che armeggia sulla mia schiena mentre io sto già sospesa a pancia bassa, appoggiata su un anello di stoffa. Speriamo che tenga. Posizioni i piedi, il tizio mi guarda e mi dice: dai, vai. Il volo dura un minuto e qualcosa, quindi è velocissimo, è un chilometro e quattro, mi sembra, a 110 km orari, quindi sì, qualcosa poco più di un minuto. La sensazione è quella, per la prima volta, di non avere contatto con la terra, ma di non preoccuparsi. Sto volando. Faccio in tempo a pensare: merda, è troppo tardi. E mi si riempiono gli occhi di lacrime. Ma è solo il vento ed è la gioia di essere lì, a farlo. Quel volo dell'angelo che la mamma non vuole neanche sentire nominare, che le amiche mi invidiano e mi invidieranno per mesi. Lo sto facendo. E dall'alto quella strada su cui passano macchine minuscole mi sembra lontanissima. Il tutto dura meno di un minuto. Poi, dopo una scarpinata, c'è il viaggio di ritorno. Stessa storia. Mi rilancio ancora per prima. E stavolta me la godo proprio tutta. E capisco perché sono arrivata fino a lì. Per capire che le piccole grandi storie che ci tormentano la vita possono essere davvero minuscole se viste dall'alto. Il mio amico Roberto Palermo mi aveva già parlato del volo dell'angelo. Lo conoscevo già prima del racconto di Micol, perché lui mi aveva mandato le foto e soprattutto mi aveva raccontato di cosa si tratta. È una di quelle cose che molte persone ti dicono: io non la farò mai, quelli sono dei pazzi. Altri invece accorrono come Micol fin da Bologna per lanciarsi di testa sopra il vuoto lungo un cavo d'acciaio. Il mio amico Roberto me l'ha descritto come una cosa entusiasmante e spaventosa, una cosa che è difficile da raccontare e che, come sempre capita in questi casi, fino a un secondo prima di farla, quando hai già pagato il tuo biglietto e sei imbragato pronto a lanciarti, ti domandi: ma chi me l'ha fatto fare? Ecco, questa domanda è un po' il perno intorno a cui, secondo me, gira tutta la questione. Cioè, tutte le cose adrenaliniche rischiose, come il volo dell'angelo, appunto, o il bungee jumping, o lanciarsi col paracadute, hanno sempre un momento, un attimo, prima di farle, in cui la domanda che balena nella testa di tutti è: ma perché? Ma perché lo sto facendo? Il problema è che poi, dopo quella domanda lì, non ce la poniamo più. Cioè, quando arriviamo a terra, ma anzi, no, in realtà un secondo dopo aver staccato il piede o il corpo ed esserci lanciati nel vuoto, quello che succede dentro di noi è troppo più forte di quello che abbiamo fatto o anche solo pensato prima di farlo. Ora però, in questo momento, a mente lucida, e dopo aver letto il racconto di Micol, non è male mettersi qui e cercare di capire e di rispondere a questa domanda. Perché? Perché facciamo qualcosa che mette a repentaglio la nostra sicurezza? Perché abbiamo voglia di rischiare? Perché abbiamo voglia di avere paura? Mi viene da pensare semplicemente ai film dell'orrore, che se me li raccontassero senza conoscerli, chiedendomi: secondo te c'è qualcuno disposto a pagare per avere paura? Io istintivamente direi: ma sei pazzo, certo che no. O alcune trasmissioni, ad esempio, che sono arroganti, che sono poco accoglienti e che però hanno un sacco di successo a dispetto di quanto verrebbe da immaginare. Ecco, perché ci piace fare cose che in teoria non ci piacciono? Perché nel corso della giornata, ad esempio, io non ho voglia di camminare nel corridoio di casa temendo che ci sia un assassino con una maschera da teschio bislunga che mi accoltella dietro una porta? E tantomeno voglia di andare da casa al lavoro appeso a un cavo a volo d'angelo a testa in giù? E semplicemente preferisco prendere i mezzi o la Vespa. Eppure, in alcuni momenti noi abbiamo voglia di testare la nostra resistenza, di vedere se siamo capaci di reggere quello stress, quel livello di paura o di tensione. Non lo so il perché, ma penso che essere in difficoltà abbia qualcosa di terribilmente attraente. Forse perché quando siamo in difficoltà siamo più simili a quello che eravamo da bambini, siamo più vicini alla parte nascosta di noi. È come se quando siamo in difficoltà ci incontrassimo. E quindi prendere un appuntamento per il bungee jumping o il volo dell'angelo è come prendere appuntamento con noi stessi. proposito di cose che terrorizzano ma di cui non si riesce a fare a meno, 349-238-6666 800-24-0024. Cosimo, stupendo il volo dell'angelo, l'ho fatto la scorsa estate, è una sensazione bellissima, ti senti libero. Cosimo, qualcosa di più però. Oltre a sentirti libero, ci sarà qualcosa di più, no? Daniele da Vicenza, io come tanti arrampico, ma pochi arrampicatori soffrono di vertigini come me. Non ne posso fare a meno di quella sensazione di cadere che mi fa stringere le prese come un pazzo. E poi ancora, ciao, sono Marco, l'anno scorso per il mio 40esimo compleanno, io e il mio gemello ci siamo lanciati da 4.000 metri col paracadute, spettacolare. E poi, beh, poi grande Marco da Vicenza che è sempre pronto a lanciarci delle sfide. Salta, c'è sempre un tono nei suoi messaggi, passiamo un po' la base. Salta da 7 metri da un elicottero senza elastico, eh? Io artigliere da montagna, voglio vedere. Ciao, Marco da Vicenza. Dai Marco, lanciaci qualche altra sfida, ti prego. Fammi sentire quanto sei uomo. Fammi sentire quanto sei più in gamba di tutti noi. Facci sentire degli imbecilli. Dai Marco. Dai Marco da Vicenza, artigliere da montagna. Che cosa vuol dire poi artiglieria da montagna? Che porti l'artiglieria da montagna. E adesso giù insulti. Prova a fare l'artigliere da montagna. Dai Marco, dai che sei lì. Facci sapere. Marco, ma soprattutto, ma tu vieni al live il 19 di giugno, vero? Non dirmi che hai qualcosa di meglio da fare martedì prossimo. Marco da Vicenza, prendi questa automobile. Prendi il tuo treno. Sicuramente tu hai un'automobile molto più figa della nostra. Sali sulla tua automobile da Vicenza e... C'è Nicola al telefono, lo so, è che mi piaceva parlare con Marco da Vicenza. Niente, Marco da Vicenza, noi siamo qui, vedi tu, dimostraci, dimostracelo. Maria da Biella mi scrive, ti ascolto da, boh, 3 anni circa, ma le storie sono vere o te le inventi? Guarda, Maria da Biella, lo chiediamo direttamente a Nicole. Pronto Nicole? No, sono verissime e soprattutto 7 metri sono niente in confronto ai miei 1000, scusate. Brava Nicole, però tu non eri senza elastico e senza niente. Marco da Vicenza da 7 metri da un elicottero, ma non parliamo di lui, parliamo di noi Nicole. Veniamo a noi. Ci sei Nicole? Sì, sono qui, sono qui. Innanzitutto, si dice Nicole o Nicole? No, si dice nel mio caso Nicole, ma poi ognuno fa come crede. Come gli pare. Senti, tu fai la giornalista. Sì, perché? In una testata online qui di Bologna. Che si chiama? Repubblica. Ah, ok, una testata online. Ok, sembrava una di quelle cose tipo, ma si chiama Bologna News, ha due persone sì, in redazione. Senti, più o meno. Sì. Hai un contratto, hai un bel contratto a progetto oppure neanche quello? Precaria. Oh, beh, precaria. Precarissima. Benvenuta nel club, però hai un contratto. Siamo tranquilli, dai. Detto sottovoce, va bene. Senti, dimmi invece, veniamo alle cose che ci fanno veramente paura, tipo il volo dell'angelo. Cosa vuol dire che hai fatto una ricerca sbagliata su Google? Nel senso che cercavo di ribeccare un filmato di una trasmissione e sono capitata in un file di una trasmissione effettivamente che era stata girata al volo dell'angelo. E la prima sensazione è stata quella di vertigini terribili, anche perché io soffro di vertigini come l'amico scalatore di prima. Però poi mi sembrava una cosa assolutamente mostruosa e ho pensato, ma questi sono veramente dei pazzi, per non essere più volgare, a fare questa cosa. Poi mi sono detta, vabbè, ma se l'hanno fatto loro, perché no? E sono ancora qui a raccontarlo, proviamoci, no? Senti, quindi tu hai convinto il tuo fidanzato, Marco, giusto? L'ho trascinato, sì. L'hai trascinato. È eccessivo. Ma lui aveva già intenzione di farlo oppure si è trovato nella classica situazione dei maschi che se lo fa la... Lui non aveva neanche intenzione di venire in Basilicata. Quindi l'ho trascinato completamente, facendo leva sul fatto che stavo per compiere 30 anni e che si compiono una volta solo nella vita e ti chiedo solo una cosa nella vita e fammi sto piacere. Cosa oh no, hai proprio toccato il tasto del pietismo. Senti, non ti chiedo mai niente, per piacere, almeno una volta, ti chiedo questa cosa, eh? Che poi glielo dico tutti i giorni, ti chiedo solo una cosa nella vita. Dai. Senti, invece dimmi esattamente come funziona, cioè tu raggiungi questo paesino, come si chiama il paese? Allora, sono due, sono perché ovviamente sono collegati, sono Pietra Pertosa e Castelmezzano, sì. Sono nelle Dolomiti Lucane in provincia di Potenza, a un'ora di macchina più o meno da Matera. Si raggiungono questi borghi e poi c'è il punto da cui ci si lancia. Esatto, la cosa è molto veloce, da un bene, perché non si ha tempo durante la procedura appunto con la quale ci si aggancia alla corda di stare tanto a pensare. Credo che sia molto positivo. Senti, questo. Dimmi quanto costa, te lo ricordi? Sì, sui 30-35 euro, dipende se è festivo o feriale. Ok. Quindi senti, è una cifra assolutamente abbordabile. Abbordabile, beh sì, rispetto alle 100-150 di robe tipo bungee jumping o paracadute. Senti, sei in ufficio adesso, sei in redazione? Lavoro da casa. Lavori da casa. Che articolo pubblichiamo? Di cosa parliamo oggi? Di oggi si parla ancora purtroppo di sisma qui in Emilia, naturalmente. Ma cosa diciamo a proposito? Ci sono state altre scosse? Ci sono... Ce n'è stata una questa mattina di magnitudo 4.3, adesso più che altro al di là delle scosse che continuano e continueranno, quindi forse è anche inutile no accanirsi su questo perché poi la popolazione che veramente è colpita già le sente, sentirle ripetere continuamente alla radio, alla TV e sui giornali aggiunge stress allo stress. Si cerca di ricostruire, quindi stanno arrivando i soldi per le scuole, scuole nelle quali i ragazzi affronteranno gli esami, la maturità, ma anche l'esame di terza media facendo quindi l'orale. È già partita la ricostruzione, Nicole, ufficialmente? Sta partendo. Okay. Stanno raccogliendo i soldi, che è ovviamente la prima tappa fondamentale senza la quale non si riparte. Grazie mille, Nicole, in bocca al lupo per tutto. Il secondo racconto di questa puntata, di questo giovedì 26 luglio, invece secondo me è un buon promemoria per tutti quelli che stanno partendo e stanno andando magari in luoghi ameni e lontani, comunque fuori dall'Italia. Perché immaginate di essere in un luogo molto lontano dall'Italia, quello sì, ma molto diverso soprattutto, molto freddo quando qui fa molto caldo, molto brullo quando qui invece magari è ricco di fiori e di piante perché la stagione lo permette, e di avere attorno a voi persone molto diverse proprio fisicamente, magari molto alte, molto bionde. Insomma, immaginate di essere in Islanda e di fermarvi a fare benzina, essere riconosciuti come italiani e quindi di sorbirvi le cose, diciamo, che ci sorbiamo quando andiamo all'estero, che non sono più tanto la questione delle canzoni napoletane, gli spaghetti e il calcio, ce ne sono aggiunte altre in questi ultimi anni. Lo racconta molto bene Andrea in questo racconto che si intitola Il benzinaio di Holmavik, o come Bonini ha sempre detto Omalvik, non ho capito perché, evidentemente aveva problemi di simil dislessia, ed è appunto la storia di lui che si ferma a fare benzina e un ragazzo con una maglietta di calcio italiana gli dice qualcosa che un po' lo fa divertire e un po' no. Parla dell'essere italiani, parla delle cose che ci rendono italiani, delle cose di cui siamo fieri e delle cose di cui non siamo fieri. Il racconto di oggi l'ha scritto Andrea e si chiama Il benzinaio di Holmavik. Islanda, estate 2003. Avevo deciso di trascorrere le mie vacanze facendo un viaggio in Islanda, senza tour operator né prenotazioni, senza consigli né indirizzi o persone da raggiungere. Un volo, un'auto a noleggio e una cartina stradale dettagliata rigorosamente in islandese. La prima cittadina di un migliaio di abitanti, Húsavík, la incontrammo dopo 1100 chilometri e quasi 10 giorni di viaggio. Un'eternità. Percorsa tenendoci il mare sulla destra, lungo la numero 1, l'unica strada interamente transitabile con un mezzo privato che non avesse quattro ruote motrici. Tra gli immensi paesaggi vuoti, fatti di lava e di muschio, fiordi minuscoli, ammantati da una struggente nebbia novembrina e isolati distributori di carburante che diventavano l'unico vero spazio di ritrovo per le persone. A Olafsfjörður, in quello che sembrava una sorta di autogrill irreale, trasmettevano alla televisione una partita del campionato di calcio inglese. C'era il sole e i giocatori si fronteggiavano sudati. Dietro alla televisione, però, le grandi vetrate del bar inquadravano il mare, inquieto, davanti al fiordo, mentre la foschia grigia e umida oscurava un orizzonte piatto, appena rischiarato dalle luci di quel villaggio che contava poche centinaia di abitanti. Quelle case isolate in mezzo quasi al nulla, che però era un nulla pieno di paesaggio, di densità, di segni. Purtroppo non ci sono più tornato da quella volta, per cui quel viaggio ha assunto anche un po' di... si è caricata del mito, ecco. Non essendoci più tornato, ha assunto un valore ancora più elevato. Il vento frustava le sarti delle imbarcazioni. Spostai nuovamente lo sguardo sulla partita in TV e immaginai fosse una registrazione. C'era troppo sole in quello stadio. Poi però passò uno spot pubblicitario che annunciava un programma della sera. La data era inequivocabile: 10 agosto 2003.